versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, questo lunedì 16 giugno, buon inizio di settimana, sono le 16.37, 10 secondi, tardissimo oggi, abbiamo anche pochi minuti perché dovremmo chiudere perché c'è tanta pubblicità, quindi oggi faccio una cosa, abolisco l'ospite e facciamo una trasmissione per far parlare solo voi in ascolto, quindi mano sul telefonino 800 24 00 24 e mandate i messaggi al 348 238, numero ragazzi, eccolo qua, 349, perdonate, 238 6666, a volte uno crede di ricordare tutto a memoria e sbaglia, perché l'argomento della puntata è sentire come la pensate qualunque cosa voi abbiate votato, ma innanzitutto se avete votato o Movimento 5 Stelle o PD, di questo imprevisto sviluppo che è avvenuto nel fine settimana e che porta alla richiesta di incontro da parte di Grillo e Casaleggio, la disponibilità più che la richiesta di incontro nei confronti di Renzi per parlare di riforma elettorale, per cominciare a parlare intanto di riforma elettorale, poi si vedrà anche se del resto della riforma istituzionale. Un colpo a sorpresa, e quindi la mia domanda è molto semplice, che cosa vi aspettate? È una cosa positiva, è una cosa negativa, è solo una manovra tattica, è un cambio di strategia secondo voi rispetto ai malumori che si erano espressi non solo nei gruppi parlamentari ma anche nella base dei quadri e degli elettori del 5 Stelle che si erano visti in rete in queste settimane di fronte a scelte un po' unilaterali come quelle del capo dell'UKIP al Parlamento Europeo, Nigel Farage. Che cosa bisogna aspettarsi da questo punto di vista? I giornali oggi offrono una tale pluralità di letture che è molto difficile capire. E quindi l'idea è che i giornalisti si grattano la testa innanzitutto e sono perplessi, ma quello che mi interessa capire invece è come la pensate voi, ripeto, non solo se avete votato o 5 Stelle o PD e magari pensate che l'errore un anno fa, ricordate quando Bersani pensò, non avendo vinto le elezioni, di dover fare il Presidente del Consiglio prima, non ce la fece, ricordate quando ci fu l'incontro con i capigruppo parlamentari appena costituiti dei due gruppi Camera e Senato di 5 Stelle in streaming, e ci fu per così dire tangibilmente la misura dell'incomunicabilità, no? Ecco, rispetto ad allora poi i rapporti si sono, come devo dire, abbastanza incarogniti tra i leader dei 5 Stelle e del PD. Renzi, da che è Presidente del Consiglio, riserva a Grillo e ai 5 Stelle le battute praticamente più dure di tutti i suoi discorsi. È avvenuto anche sabato mattina all'Assemblea quando ha detto sì, vincerete voi ma tra 100 anni. Devo dire che Grillo dall'altra parte non ha mai risparmiato battute molto pesanti su Renzi, che ha sostituito Letta nella definizione lebetino, per così dire. Ecco perché quando poi Grillo e Casaleggio insieme sul sito hanno a sorpresa rispetto al loro stesso movimento e senza nessuna consultazione dichiarato la disponibilità di questo incontro, hanno iniziato a fiorire le interpretazioni più varie e diverse. Quando dico più varie e diverse, basta dare un occhio a come i giornali hanno presentato oggi la cosa. Se cominciamo dalla Stampa, la Stampa fa un titolo che dice Grillo e Renzi, dialogo e sospetti, i leader 5 Stelle parliamo di legge elettorale, la risposta ma niente Giochetti, è quella che ieri nel tardo pomeriggio ha dato Renzi, e ci sono sulla Stampa, il quotidiano diretto da Calabresi, il quotidiano torinese, interviste sia della vice segretario del PD Deborah Serracchiani da una parte e dall'altra di un deputato e un senatore dei 5 Stelle, la deputata Mara Mucci del 5 Stelle e il senatore dei 5 Stelle Morra, e si capisce che da una parte c'è un po' di sorpresa e dall'altra non c'è molta fiducia, perché Deborah Serracchiani dice sì al confronto anche in diretta web, perché questa volta lo streaming è stato Renzi a chiederlo, però si parta dal lavoro fatto da noi, cioè dall'Italicum, che 5 Stelle considera un trucco messo a tavolino insieme con Berlusconi. Ricordo a tutti che la legge elettorale, la proposta di legge elettorale del Movimento 5 Stelle è completamente diversa dallo schema di iperpremio maggioritario dell'Italicum, elaborato quando, dopo, prima delle europee, perdonatemi, quando ancora si pensava che le due formazioni di punta, coalizioni di punta, potessero essere il PD della sinistra da una parte e dall'altra Berlusconi e i suoi alleati. Invece il Movimento 5 Stelle ha un modello di proposta elettorale semispagnolo, quindi un sistema proporzionalista e un proporzionale corretto, che ha un effetto di correzione di questo proporzionale perché allarga la dimensione delle circoscrizioni. Propongono 42 circoscrizioni i parlamentari dei 5 Stelle, e come in Spagna, allargando le circoscrizioni, questo accresce il numero per fare un eletto nella circoscrizione, quindi è un effetto un pochino maggioritario. Nella proposta sempre 5 Stelle ci sono le preferenze e addirittura c'è il cosiddetto panachage. Che cos'è il panachage? È la possibilità di votare candidate di liste anche diverse da quella votata, e questo effetto che vi dicevo, ampliando le circoscrizioni, è ulteriormente però un po' attenuato nella proposta delle 5 Stelle, perché ci sono 33 circoscrizioni che assegnano il 60% dei seggi e 9 invece che assegnano il 40%. Ecco, e nelle 33 circoscrizioni maggiori, quelle che assegnano il 60%, c'è di fatto, anche se non di diritto, una soglia di sbarramento che è intorno al 5%. Naturalmente questo schema, come potete capire, è completamente diverso dal premio maggioritario a oltre 37% che è previsto dall'Italicum. E infatti i 5 Stelle dicono: la nostra non è una legge costruita a tavolino con la certezza di vincere, o per farci vincere o per far vincere qualcuno, è una proporzionale. Io sono molto critico della proporzionale, però detto questo, la domanda non è oggi nel merito delle proposte, è nel capire come la pensate voi. Cioè, è una svolta vera oppure è tattica? Allora iniziamo ad ascoltare Francesco da Bergamo. Francesco, prego, tu come la pensi? Innanzitutto buongiorno e complimenti per la trasmissione, banale però. Allora, io sono stato un 5 Stelle della prima ora, quindi militante, ho creduto moltissimo. Sono stato uno dei 5 Stelle che ha votato per mandare Grillo a parlare con Renzi, e ci credevo. E quindi mi ritengo uno dei tanti 5 Stelle deluso per quello che è successo. Quindi l'analisi che mi viene da fare in questo momento è: ci svegliamo un po' troppo tardi. Meglio che ci siamo svegliati, questo è indiscutibile, nel senso che sicuramente. Ma io non ho capito una cosa, l'Italia. Però aspetta, anche per rispetto di chi sta ascoltando, tu naturalmente sei libero di rispondere come vuoi. Tu hai esordito dicendo sono stato, adesso sì. Però stai parlando al plurale, ti senti ancora espressione del elettore del Movimento 5 Stelle o no? Allora, come ho detto, allora io sono stato candidato sindaco, sì, alle ultime elezioni con una lista civica. E quando mi facevano questa domanda io dicevo: io sposato le idee del 5 Stelle perché le ritenevo e le ritengo, sotto molti punti di vista, ancora molto valide, ma io non accettavo più il metodo, accettavo il merito ma non il metodo di come si proponeva il movimento, e quindi mi sono dissociato e allontanato. Si riallaccia anche al discorso che su questa nuova apertura a Renzi e via dicendo. Io credo che mi puzza un po' di salviamo il salvabile, ecco, cioè siamo in caduta libera, troviamo il modo per fermare questa caduta, troviamo il modo per ridare credibilità a delle persone, perché i ragazzi che sono a Roma comunque molti li ho seguiti, quindi sono persone assolutamente valide, troviamo il modo per ridare credibilità, e cosa tiriamo fuori? Tiriamo fuori: beh, adesso apriamo a Renzi. Quindi tu tendenzialmente pensare, però non ci credi troppo, se posso capire, perché pensi che sia una mossa tattica. Conoscendo il modo di fare di Grillo fino adesso e di Casaleggio soprattutto, dico, secondo me è una mossa tattica o comunque una mossa di sopravvivenza, ecco, mettiamola in questa maniera, perché è chiaro a tutti cosa perché è successo, tu dici, no? Esatto, si stava andando in una direzione sbagliata, il risultato delle europee rispetto alle attese molto gonfiate, le polemiche dopo Farage e così via. Allora io devo dire, hai dato una risposta chiarissima, volevo solo riportare, il senatore Morra 5 Stelle dice: no, attenti a non equivocare, a non espressione di debolezza alla richiesta di Grillo, ma visto che oramai è il governo che fa tutto, dice il senatore Morra 5 Stelle, è inevitabile parlare con il capo. Invece la deputata Maramucci dei 5 Stelle dice: io sono favorevole, e però si chiede: ma perché nemmeno in questo caso nessuno ha consultato gli iscritti? tutti, tenete conto che nei confronti di alcuni che sono finiti fuori dai gruppi parlamentari, che ne so, Aureliana, l'accusa era quella di volere con eccessiva intensità parlare con il PD, confrontarsi con il PD, anzi per alcuni l'accusa fu: vi vedete a cena con quelli del PD. E quindi anche questo interrogativo dell'onorevole Mucci, 5 stelle, non dissidente, e dovete capire che insomma un po' di sorpresa c'è tutta. Adesso abbiamo i 60 secondi di strada e poi tornate a telefonarci 800 24 00 24. Credere o no, è una svolta costruttiva o una finta questa dell'incontro tra Casaleggio e Grillo e Renzi sulla legge elettorale? La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, 16:48, 52 secondi. Vi stiamo chiedendo l'opinione o con gli sms o con le telefonate su come la pensate su questa richiesta di incontro, a sorpresa venuta da Grillo e Casaleggio nei confronti di Renzi sulla legge elettorale, per un confronto dopo mesi e mesi di insomma legnate reciproche, parliamoci chiaro. Allora, innanzitutto vediamo alcuni sms che ci avete mandato e poi torniamo a telefonate che sono in attesa. Allora, un primo sms: Renzi vada a provare la legge elettorale con le condizioni di Berlusconi? Il Movimento 5 Stelle offre i suoi voti per discutere la sua proposta, o Silvio Grillo? Questo è il dilemma. Alcuni giornalisti pensano infatti che Renzi non sia per niente dispiaciuto di questa offerta del Grillo. Perché? Perché lo rende centrale proprio nei confronti di Berlusconi, come ci dice questo ascoltatore. Mi stanno tutti riconoscendo la centralità, insomma, dice Renzi, e quindi Berlusconi abbassa la cresta e andiamo avanti. Questa potrebbe essere una delle interpretazioni, vediamo. Altro sms: con questa bravata Grillo perderà il 4 o 5% dei voti, ci scrive un ascoltatore. Non lo so, perché li stava perdendo, dicevano i sondaggisti, perché era troppo isolato e troppo sprezzante. Poi un lettore della Lega ci manda un sms: penso che il dialogo sia sempre costruttivo, il proporzionale puro non va assolutamente bene perché è il padre di tutti gli accordi segreti. Questo è Massimo da Novara che ci scrive così. Altro ascoltatore: buon cambio di strategia per togliere alibi al PD che vuole nascondersi dietro Berlusconi per avere una legge che a me, dice l'ascoltatore, sembra anticostituzionale. Un altro ascoltatore sulla stessa linea dice: Grillo sta cercando di far uscire Renzi allo scoperto, cioè di far capire che l'Italicum è più che altro un pericoloso bla bla. Se Renzi non lo fa, dice un altro ascoltatore, è un falsone come gli altri, quindi meglio che vada a un incontro mostrandosi costruttivo. Un altro ascoltatore, questo Valerio da Fermo, e poi andiamo alle telefonate: Grillo ha capito la forza di Renzi e ha paura di rimanere isolato, dice Valerio. Ora Renzi non dovrebbe neanche ascoltarlo, io lo farei cuocere nel suo brodo di giuggiole, dice Valerio. Non lo so, Valerio, sei così sicuro che questo sarebbe utile per Renzi? Non ne sono convinto. Io mi auguro invece un incontro serio, vi dico la verità, vi stupirò. Ma io credo che entrambi abbiano da guadagnare solo se non vanno lì con l'attitudine di chi vuole prendersi a pugni. Posso sbagliare. Ancora, semplicissimo: Renzi senza gli aiuti esterni non avrebbe la fiducia sulla riforma. Grillo e Salvini non vogliono che il governo cada. L'ascoltatore ha colto che c'è un altro elemento, perché anche Calderoli la scorsa settimana, a sorpresa e fregando Berlusconi, è andato a infilarsi nella trattativa e portando a casa sul titolo quinto, non sulla legge elettorale, delle cose che interessano alla Lega. Quindi il gioco sta cambiando. E andiamo adesso invece a un po' di altre vostre telefonate. Cominciamo con Anna da Siena. Che pensi di questa richiesta? Che ti aspetti, Anna? Dunque, io non mi fido di Grillo. Io ho sempre votato il centrodestra, le ultime politiche ho votato Fare e lo voterei ancora se ci fosse lei, però alle europee sono andata e ho votato il PD. Renzi non mi entusiasma, però volevo assolutamente battere Grillo, perché Grillo mi sembra dice delle ovvietà, dice quello che qualcuno di noi non timido vorrebbe andare lì e dire, perché tutte le cose dice lui le conosciamo tutte. Però non mi fida, non mi piace, ha capito che sta perdendo voti. Quindi non ti aspetti molto di questo. È una mossa tattica di Grillo per Anna. Sentiamo Daniele da Verbania. Prego, Daniele. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Andiamo avanti. Io sono un elettore di 5 Stelle. Ecco. Secondo me c'è una fondamentale verità che ha dovuto mettere lo stesso Grillo. Renzi ha preso il 41%, quindi è legittimatissimo in questo momento, ma soprattutto la legge elettorale che i 5 Stelle avevano già preparato prima ancora dell'Italicum va assolutamente proposta, se non altro perché dall'altra parte c'è veramente la parte c'è il gioco del vecchio, del vecchissimo. Non si può più parlare di Berlusconi e di tutti gli altri, Casini, Buttiglione, Alfano, tutti. Cioè, secondo me, questo incontro qui sta da fare. Allora, Daniele, aspetta, perché secondo me hai detto, a parte il fatto che condivido, ma questo conta poco, il giudizio che dai su una classe politica della destra che da troppi anni, secondo me, non se ne rendono conto, ma non hanno una credibilità per dare un'offerta politica di livello. Questa è una mia opinione, però ci tengo a dirlo perché coincide con la tua. Quello che invece tu sottolinei è una cosa su cui secondo me i giornalisti non sono ancora abbastanza interrogati. Paradossalmente, l'impianto proporzionale corretto della proposta 5 Stelle che prima ho tentato di riassumere, che tu, Daniele, hai appena riportato, per Renzi è una seria domanda da porsi, perché l'impianto neoproporzionale della proposta 5 Stelle corre il rischio, seriamente, secondo me, di avere una contromaggioranza in Parlamento che sfida il PD, perché oggi come oggi il centrodestra di Berlusconi non è più sicuro di essere lui quello che arriva appiccicato al PD per poter concorrere al premio di maggioranza, e lì c'è una vecchia, un vecchio istinto neoproporzionalista negli ex democristiani che tu citavi. I leghisti sono neoproporzionalisti, Passera non è in Parlamento, si è presentato sabato, ma pensa un proporzionale corretto pure lui. Era questo che volevi dire, Daniele? Una legge neoproporzionale può in realtà rappresentare un'alternativa molto più credibile dell'Italicum con Berlusconi? Io sono sempre stato favorevole, cioè da un punto di vista logico, il proporzionale, cioè da un punto di vista proprio puro del pensiero, il proporzionale sarebbe, secondo me, la cosa migliore. Però ci ha regalato poi tantissimi anni con governi che cadevano giorni secondo. Io penso che senza giochi e giochetti, in queste 5 Stelle, cioè, non li hanno mai fatti e si sono dimostrati concreti in alcune cose. Renzi, se sta dicendo la verità, che lui vuole fare il progetto per gli italiani. Allora vado a vedere seriamente. Perfetto, sentiamo ancora Michele da Bari. Michele, prego. Buonasera Giannino. Sì. Non si aspetti, non sono un homo sapiens, siamo dalla strada. Ma è sicuro, sì, siamo tutti uguali e ci mancherebbe altro. Sì, purtroppo il mio grado. Dica come la pensa, dica come la pensa. Lei è un elettore e un contribuente come tutti, non si preoccupa. Va bene, e niente, continuerò a votare il gruppo di Grillo, PD non voterò più che far. Credo, ho molta fiducia nell'accordo, se ce lo farà. Però lei dice Grillo vai avanti. Bene, noi purtroppo dobbiamo chiudere e credo che continueremo anche domani a sentire la vostra opinione, perché questo potrebbe essere una svolta, positiva o negativa vedremo, ma sentiamo la vostra opinione. Continuate con Radio 24.